cammina Halloween. Non so chi incontrerò, sento dei rumori. Che mostro scoprirò? Sento! Una strega! Rido come fa. Cammina Halloween, non so chi incontrerò, sento mori, che mostro scoprirò. Sento! Un vampiro! Mordo! Cammino a Halloween, non so chi incontrerò, sento dei rumori, che mostro scoprirò. Sento! Ulula, come fa il lupo?